Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Quella notte il duca, continuava a raccontare Madame de Lillingarten, guardò le carte che Geldern gli aveva portato. Deve essere stato verso l'inizio della lettura che diede ordine di arrestarvi, perché voi foste preso a mezzanotte, Magni alle 10. E dopo il suo arresto, il vecchio barone di Magni aveva visto Sua Altezza per protestare l'innocenza del nipote, e Sua Altezza l'aveva ricevuto con grande cortesia e benevolenza. Sua Altezza disse che non aveva alcun dubbio che il giovanotto fosse innocente. La sua nascita e il suo sangue rendevano impossibile un simile crimine. Ma i sospetti contro di lui erano troppo forti. Si sapeva che quel giorno si era chiuso in camera con l'ebreo, che aveva ricevuto una grossissima somma di denaro, poi sperperata al gioco, ma certamente presa a prestito dall'ebreo stesso, che a costui aveva messo dietro il suo domestico, il quale si era informato sull'ora della sua partenza, gli aveva teso un agguato e l'aveva quasi rapinato. Gli indizi contro il cavaliere de Magny erano dunque tanto gravi che il normale corso della giustizia richiedeva il suo arresto. Nel frattempo, finché non si fosse discolpato, sarebbe stato tenuto in prigionia. Ma una prigionia non disonorevole, con ogni riguardo per il suo nome e per i servizi compiuti dal suo onorevole avo. Con questa garanzia e con una calorosa stretta di mano, il principe lasciò il vecchio generale de Magny per quella notte, e il veterano andò a riposare quasi sollevato, fiducioso che Maxime sarebbe stato certamente messo in libertà prestissimo. Ma di mattina, prima del levar del sole, il principe, che aveva passato la notte a leggere carte, chiamò urlando il suo paggio che dormiva fuori della porta, nella stanza accanto. Gli ordinò di far venire dei cavalli, ne tenevano sempre qualcuno pronto nelle scuderie, e, gettato un pacco di lettere in uno scrigno, disse al paggio di prenderlo con sé e venirgli dietro a cavallo. Il giovanotto, Monsieur de Weisborn, raccontò poi queste cose a una signorina che era allora a servizio in casa mia e che oggi è Madame de Weisborn e ha una caterva di bambini. Il paggio raccontò che mai s'era vista una trasformazione come quella che aveva colpito il suo augusto padrone nel corso di una sola notte. Aveva gli occhi iniettati di sangue, la faccia livida, i vestiti scompigliati, quell'uomo che davanti alle truppe in parata aveva sempre fatto la sua comparsa vestito con la stessa cura meticolosa di qualsiasi sergente del suo esercito, ora lo si vedeva galoppare all'aurora per strade solitarie, senza cappello, con i capelli senza cipria che gli svolazzavano dietro come quelli di un pazzo. Il paggio, stringendo lo scrigno di carte, faceva rimbombare il selciato dietro il suo padrone. Non era facile stargli dietro. Galopparono dal palazzo alla città, poi attraverso la città fino alla residenza del generale. Le sentinelle all'entrata si spaventarono a vedere quella strana figura che si precipitava verso i cancelli del generale e, non riconoscendola, incrociarono le baionette negandogli l'entrata. «Idioti!» disse Weisborn. «È il principe!» Si attaccarono al campanello come se avessero dovuto dare l'allarme per un incendio. E finalmente il portiere aprì e Sua Altezza corse su per le scale fino alla camera da letto del generale, seguito dal paggio con lo scrigno. «Magni! Magni!» urlò il principe tempestando di pugni la porta sbarrata. «Alzatevi!» E alle domande del vecchio da dietro la porta chiusa rispose: «Sono io, Vittor, il principe! Alzatevi!» Subito la porta fu aperta dal generale in giacca da camera e il principe entrò. Il paggio portò dentro lo scrigno ed ebbe ordine di aspettare fuori, e così fece. Ma in camera di Monsieur de Magny c'erano due porte che comunicavano con l'anticamera, una grande che costituiva l'ingresso principale alla camera e un'altra più piccola che dava, come si usa nelle nostre case sul continente, sul gabinetto adiacente all'alcova del letto. Questa seconda porta, Monsieur de Weisborn la trovò aperta, e così il giovane poté sentire e vedere tutto ciò che accadeva nella camera. Il generale domandò con un certo nervosismo quale fosse la ragione per cui Sua Altezza gli faceva visita così di buon mattino. Ma il principe Victor per qualche minuto non rispose, se non con uno sguardo folle e col suo camminare a grandi passi su e giù per la stanza. Finalmente disse: «Ecco la ragione», pestando il pugno sulla cassetta, e siccome aveva dimenticato di portare con sé la chiave, si mosse verso la porta dicendo: «Forse ce l'ha Weisborn, ma visto sopra la stufa uno dei coltelli del generale, lo prese e disse: "Questo andrà bene", e subito si mise al lavoro per forzare il cofanetto rosso con la lama del coltello da caccia. La punta si spezzò, lui lanciò una bestemmia, ma continuò ad armeggiare con la lama spezzata che serviva il suo scopo meglio del coltello lungo e appuntito, e alla fine riuscì a schiantare la serratura e aprire il coperchio della cassetta. «Qual è la ragione?» disse con una risata. «Eccola qui la ragione! Leggete questa! Ecco un'altra ragione! E leggete anche questa! Ed eccone un'altra! No, no, no! Questa no! Questo è il ritratto di un'altra donna! Ma questa è lei! La riconoscete, Magni? È mia moglie, la principessa! Perché mai voi e la vostra dannata razza siete venuti dalla Francia a seminare la vostra infernale perfidia dovunque mettevate piede e a mandare in rovina le case delle oneste famiglie tedesche? Cos'altro avete mai avuto dalla mia famiglia, voi e i vostri, se non fiducia e affetto? Noi vi abbiamo dato una casa quando voi non ne avevate più, ed ecco la nostra ricompensa!» E scagliò un pacco di carte ai piedi del vecchio generale, che vide subito la verità. La conosceva da tempo, probabilmente, e affondò nella poltrona, coprendosi il viso. Il principe continuò a gesticolare, quasi a urlare, se qualcuno vi avesse insultato nello stesso modo. Magni, prima che voi metteste al mondo il padre di quel giocatore, quell'impostore, quella canaglia, avreste saputo come vendicarvi. Voi l'avreste ucciso, sì, l'avreste ucciso. Ma io, chi mi aiuterà a vendicarmi? Non c'è chi mi sia pari. Non posso battermi con quel cane di un francese, quel ruffiano venuto da Versailles, e ammazzarlo come se avesse fatto la parte del traditore con uno del suo stesso rango. Il sangue di Maxime de Magny, osservò fieramente il vecchio gentiluomo, vale quello di qualsiasi principe della cristianità. «Ma posso prendermelo quel sangue?» gridò il principe. «Lo sapete che non posso. Non posso avere un privilegio accordato a qualsiasi altro gentiluomo d'Europa. E che devo fare? Ascoltate, Magni. Ero fuori di me quando sono venuto qui. Non sapevo che fare. Voi mi avete servito per 30 anni. Mi avete salvato la vita 2 volte. Sono tutti imbroglioni e sgualdrine qui attorno al mio vecchio padre. Nessuno che sia onesto, né donne né uomini. Voi siete l'unico. Voi mi avete salvato la vita. Ditemi, che devo fare?» E così, appena finito di insultare Messie de Magny, il povero principe Victor, mezzo impazzito, si era ridotto a supplicarlo e alla fine si gettò addirittura a terra, rompendo in un pianto angosciato. Quando il vecchio Magni, che di solito era un uomo estremamente freddo e inflessibile, vide questo sfogo di passione da parte del principe, rimase sconvolto. Sempre altero e gelido, il barone cadde d'un tratto, per così dire, nel querulo piagnucolio dell'estrema vecchiaia. Perse ogni traccia di dignità, si buttò in ginocchio, esplose in ogni sorta di esagitati sconnessi tentativi di consolazione, al punto che Weisborn disse poi di non aver potuto sopportare quella scena e di essersi allontanato per non assistervi. Ma da ciò che accadde pochi giorni dopo, possiamo immaginare l'esito di quel lungo incontro. Il principe, quando pose fine alla conversazione con il suo vecchio servitore, dimenticò dietro di sé il suo fatale cofanetto di carte e rimandò indietro il paggio a prenderlo. Il generale stava inginocchiato nella stanza, a pregare, quando il giovane entrò. Fece appena un movimento e si guardò attorno come un pazzo, mentre l'altro prendeva lo scrigno. Il principe se ne andò a cavallo al suo casino da caccia a 3 leghe dal ducato di Baviera. E 3 giorni dopo, Maxime de Magny morì in prigione, dopo aver confessato di essere implicato nella tentata rapina ai danni dell'ebreo e di averla fatta finita per vergogna del suo disonore. Quello che però non è noto a tutti è che fu il generale stesso a portare il veleno a suo nipote. Si disse anche che gli avesse sparato in prigione, ma le cose non andarono così. Il generale de Magny portò a suo nipote la bevanda che doveva mettere fine ai suoi giorni. Mostrò al disgraziato giovane che il suo destino era inevitabile e che sarebbe stato anche pubblico e scandaloso a meno che lui non volesse anticipare il proprio castigo. E con queste parole lo lasciò. Ma quell'essere sfortunato non morì di sua spontanea volontà. La sua vita fu condotta al suo esito tragico, ma non prima che egli avesse tentato ogni mezzo di fuga, come sentirete. Quanto al generale de Magny, cadde in uno stato di totale rimbambimento poco dopo la morte di suo nipote e la scomparsa del mio onorevole duca. Dopo le nozze di Sua Altezza il principe Victor con la principessa Mary, un giorno che passeggiavano insieme nel giardino all'inglese, incontrarono il vecchio Magny. Faceva il suo giretto al sole, nella poltrona in cui veniva portato fuori di solito in seguito al suo attacco di paralisi. «Questa è mia moglie, Magny», disse affettuosamente il principe, prendendo la mano del veterano, e aggiunse, voltandosi alla principessa, «Il generale de Magny mi ha salvato la vita durante la guerra dei 7 anni». «Come? Ve la siete ripresa?» disse il vecchio. «Vorrei tanto che mi riportaste anche il mio povero Maxime». Aveva completamente dimenticato la morte della povera principessa Olivia. Il principe Victor, molto rabbuiato, passò oltre. «E ora?» disse Madame de Lillingarten. «Mi resta solo una storia tenebrosa da riferirvi. La morte della principessa Olivia è ancora più orribile di quella che vi ho appena narrato. E con questa premessa, la vecchia signora riprese il suo racconto. Il fato di quella gentile, debole principessa fu affrettato, se non causato, dalla vigliaccheria di Magny. Trovò modo di comunicare con lei dalla prigione, e Sua Altezza, che non era ancora apertamente in disgrazia, perché il duca, per riguardo alla famiglia, insisteva in colpare Magny soltanto della rapina, fece sforzi davvero disperati per salvarlo, corrompendo i carcerieri perché lo lasciassero fuggire. Era talmente fuori di sé che perse ogni traccia di pazienza e di prudenza nell'organizzare i suoi piani per la liberazione di Magny, ma suo marito era inesorabile e aveva fatto sì che la prigione del cavaliere fosse sorvegliata tanto strettamente da rendere impossibile la fuga. Offrì impegno i gioielli del tesoro ducale al banchiere di corte, che naturalmente dovette declinare la transazione. Cadde in ginocchio, si dice, davanti a Geldern, il ministro di polizia. Con che offerta cercasse di corromperlo, lo sa il cielo. Infine arrivò urlando dal mio povero caro duca, che per la sua età, le malattie e la bella vita che faceva non era certo in grado di sopportare scene di natura così violenta, e in conseguenza dell'agitazione prodotta nel suo augusto seno dalla furia frenetica di quella donna angosciata, ebbe un attacco in cui fui vicina a perderlo. Non ho il minimo dubbio che la sua cara esistenza sia stata condotta a immatura fine da tutti questi traffici. Tutti i movimenti di Sua Altezza la principessa venivano seguiti con attenzione, per quanto celata, da suo marito, il principe Victor. Un giorno che lui faceva visita al suo augusto padre, lo informò con tono severo che se Sua Altezza, il mio duca, avesse osato dare aiuto alla principessa nei suoi sforzi per liberare Magnet, lui, il principe Victor, avrebbe pubblicamente accusato la principessa e il suo Ganimede di alto tradimento e avrebbe preso provvedimenti con la dieta per rimuovere suo padre dal trono in quanto incapace di regnare. Perciò ogni intervento da parte nostro era vano e Magni fu lasciato al suo destino. La sua morte fu resa pubblica nella gazzetta di corte di 2 giorni dopo. Un trafiletto diceva che Monsieur de Magny, afflitto dal rimorso per aver tentato di assassinare l'ebreo, si era dato la morte in prigione con del veleno. Seguiva un monito a tutti i giovani aristocratici del ducato perché si astenessero dal gioco, orrendo peccato che aveva causato la rovina del giovane e recato un dolore inconsolabile alla canizie di uno dei più nobili e onorevoli servitori del duca. La notizia della morte di Maxime era stata in qualche modo tenuta nascosta alla principessa. Si era giunti addirittura a stampare una copia della gazzetta senza il trafiletto che riferiva del suicidio. Ma alla fine non so come lo venne a sapere. E quando lo seppe, mi dissero le sue dame, gettò un grido e cadde come colpita a morte. Poi si drizzò a sedere sconvolta e cominciò a delirare come una pazza. Allora la misero a letto e il suo medico venne ad assisterla mentre giaceva in preda alla febbre cerebrale. In tutto questo tempo il principe Victor mandava a chiedere regolarmente notizie sul suo conto e a giudicare dal fatto che aveva ordinato di preparare e arredare il suo castello di Schlagenfels, non ho alcun dubbio che avesse intenzione di confinarla là. La principessa mandò più volte a chiedere di essere ricevuta da Sua Altezza, ma lui rifiutò sempre, dicendo che avrebbe comunicato con Sua Altezza la principessa quando si fosse ristabilita a sufficienza. A una delle sue lettere appassionate, rispose inviandole un pacchetto in cui all'apertura si trovò lo smeraldo, il movente attorno a cui aveva ruotato tutto quell'oscuro intrigo. Questa volta Sua Altezza perse davvero la ragione. Giurò alla presenza di tutte le sue dame che una sola ciocca dei capelli del suo adorato Maxime per lei era più preziosa di tutti i gioielli del mondo. Ordinò la carrozza e disse che voleva andare a baciare la sua tomba. Proclamò l'innocenza di quel martire assassinato e invocò il castigo divino e l'ira della sua famiglia contro l'assassino. Il principe Victor, a sentire queste tirate, che naturalmente gli venivano tutte riferite, gettò, pare, uno di quei suoi sguardi terribili, ah, li ricordo ancora, e disse: «Questo non può più durare a lungo». Questa è la storia che mi raccontò Madame de Lillingarten, e il lettore non avrà difficoltà a riconoscere la parte di essa che ebbe un effetto sulla vita mia e di mio zio. Dopo 6 settimane di arresto, venimmo rimessi in libertà, ma con l'ordine di lasciare immediatamente il ducato, anzi, con una scorta di dragoni per accompagnarci alla frontiera. Ci fu permesso di vendere e realizzare in denaro tutto ciò che possedevamo, ma non ci venne pagato nessuno dei nostri crediti di gioco, e tutte le mie speranze sulla contessa Ida andarono in fumo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.